Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. In questo periodo a cavallo tra l'estate e l'autunno trattiamo il tema dell'automobile con due argomenti insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Bentrovato al presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, il primo argomento che trattiamo è quello degli acquisti delle automobili. Sappiamo che il mercato è in nettissima difficoltà per la crisi, il bene materiale dell'automobile è un bene su cui investire a lungo termine, evidentemente si cerca di ritardare il più possibile questo acquisto, ove possibile magari si punta sulle auto usate, a meno che non si incappi in una disavventura come quella capitata ad un vostro socio. Cos'è successo? Sì, un socio dell'Adico qualche giorno fa si è rivolto a noi perché ha scoperto che l'auto che ha acquistato usata, convinto di fare un buon affare, non aveva i chilometri dichiarati nel cruscotto, ma si è trovato ad avere un chilometraggio che era sostanzialmente il triplo rispetto a quelli dichiarati, ovvero non aveva 50 e rotti mila chilometri, ma oltre 180.000 chilometri. E allora, memori di questo caso e di molti altri, abbiamo deciso come Adico di affrontare questo delicato argomento, perché abbiamo notato come in questo periodo sempre più persone hanno delle controversie per quanto riguarda il mercato usato dell'auto e come ci siano ancora idee poco chiare al riguardo. Ecco, allora cerchiamo appunto di fare chiarezza. Per chi vuole comprare un'auto usata, ovviamente guardare il chilometraggio è importante, ma non solo questo. Allora, amico, innanzitutto il codice del consumo non fa particolare distinzione se l'acquisto è di prima o di seconda mano, quindi si parla di vendita, di compravendita. Pertanto, salvo una trattativa individuale, la garanzia deve essere almeno di 12 mesi, se non di 24. Certamente, come ho detto, salvo trattativa individuale, perché molte volte viene all'oscuro che accettando quelle che sono le condizioni contrattuali, tipo garanzia 6 mesi o garanzia un anno, va a far o rischia di andare a far decadere quello che magari è un suo diritto. La seconda cosa è il famoso certificato di conformità, che è il documento più importante che il consumatore deve pretendere e farsi rilasciare anche in copia sottoscritta dal venditore, sia esso pubblico che privato. Quindi questo certificato che è fondamentale, altrimenti invalida credo anche l'acquisto, a meno che uno non la compri in nero la macchina, però comunque poi va registrata, c'è il bollo da pagare, eccetera eccetera. Nel caso malaugurato, appunto come è successo al vostro socio, che ad esempio il chilometraggio non corrisponda a quello reale, quali diritti ci sono e come agire di conseguenza? Sì, scusami Mirko, ho detto pubblico privato, in realtà volevo fare la distinzione tra venditore concessionario e privato come cittadino sì, normale. Certo, okay, sì, certo, ok, ma avevamo inteso okay. Che il senso fosse quello, certo. Allora, come ti ho detto, il certificato di conformità è un documento molto importante che troppe persone, abbiamo notato, sottovalutano o non conoscono, dove sostanzialmente vengono descritte tutte quelle che sono le condizioni con cui l'auto viene consegnata all'acquirente, cioè vengono dichiarati i chilometri, viene dichiarato lo stato di usura delle parti meccaniche, dei freni, delle gomme, uno stato generale dell'auto, vengono dichiarate che le parti elettriche oppure altre parti siano corrispondenti a quelle originali, che la documentazione sia in regola, magari corredare tutto di materiale fotografico, eccetera. Questo perché? Perché questo poi diventa quello che a tutti gli effetti è la base della nostra garanzia o all'insorgere di qualsiasi vizio, il consumatore ha tempo 60 giorni per denunciare l'insorgenza di un qualsiasi vizio rispetto a quelle che sono delle condizioni che l'auto dichiara di avere rispetto a quelle che magari poi scopre che queste non sono. Poi il venditore, da canto suo, se trova la denuncia giusta o sbagliata, sta a lui l'onere della prova. Diversamente, se questa cosa, come nel caso specifico della persona, si è trovato ad avere dei chilometri diversi rispetto a quelli originali, ecco qua bisogna anche stare attenti perché in questo caso c'è anche la truffa, ma allora in questo caso si può, ci sono anche i termini non solo per la denuncia penale ma anche per eccedere quelli che sono quello che è un contratto a tutti gli effetti sottoscritti da due parti. Mettiamoci dalla parte invece del venditore, cioè io non voglio comprare un'auto usata ma voglio vendere la mia auto come usata, e in questo caso che cosa devo fare all'automobile, cioè in quale stato devo metterla in vendita? Nessuno è obbligato a venderla in un particolare stato, le persone devono essere semplicemente obbligate a dichiarare la verità, cioè l'auto ha 80.000 chilometri dichiarati, ti dimostro che sono stati tagliandati magari presso la stessa officina o magari comunque che la manutenzione è stata fatta regolarmente, ti dichiaro che i freni sono tenuti bene ma non sono nuovi, sono stati appena cambiati, perché ci sono casi di persone che si sono trovati con la macchina che doveva essere perfetta e dopo 3 mesi hanno dovuto cambiare la scatola dello sterzo o la cinghia di distribuzione per farti capire, oppure hanno scoperto che la cinghia non era stata fatta assolutamente rispetto a quanto dichiarato. Se gli interni sono tenuti bene, fare una fotografia, perché poi è importante che insomma anche lo stato di conservazione sia utile per farci un'idea di cosa andiamo a comprare, perché poi, come ho detto, questa cosa deve essere un documento sottoscritto da entrambi le parti, perché viceversa non puoi neanche comprare un'auto e dopo magari trattarla male e denunciare un vizio che non aveva, perché comunque è stato una persona negligente. Quindi il contratto deve essere più dettagliato possibile, ma deve essere corrispondente al vero e deve essere sottoscritto dalle parti, e questo significa che ciascuno deve conservarne copia. E fa riferimento evidentemente poi alla propria officina di fiducia, anche per verificare che tutto ciò che è stato comprato corrisponda al vero. Con questi consigli, appunto, che vanno sempre bene anche in periodo di crisi per l'acquisto di automobili usate, noi ci fermiamo, ma ci ritroviamo, Carlo, per parlare di un tema legato all'automobile, che è quello delle multe, con le novità introdotte appena pochi giorni fa dal governo. Intanto grazie e buon proseguimento. Ciao amico, un saluto a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.